Radio 24 Reportage. Fuga verso la Svizzera? In viaggio con gli imprenditori pronti a lasciare l'Italia. Di Raffaella Calandra. Non trasformiamo il Gaggiolo, che è il valico della provincia di Varese, o Chiasso, che sarebbe quello della provincia di Como, come la nostra Lampedusa. E il rischio che si corre effettivamente è quello, questa fuga verso dei paradisi che poi alla fine vorrei capire bene se sono proprio paradisi. Neanche 40 chilometri separano Busto Arsizio dal passaggio verso il nuovo mondo. E in questo nord di capannoni svuotati dalla crisi, la ricerca di una vita migliore corre dentro i tunnel che portano ancora una volta in Svizzera. Agli occhi degli imprenditori oggi tutto sembra più bello e più florido dall'altra parte del valico del Gaggiolo, ed è per questo che non è solo una paura ma una concreta preoccupazione quella di Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, di dover assistere alla grande fuga, il trasferimento oltre Alpe, cioè di decine di aziende italiane. Alcuni l'hanno già fatto, altri si preparano a seguirli, quasi tutti da queste parti, terra di fabbriche, tutt'uno con le famiglie, almeno una volta ci hanno pensato. Ed è per questo che quando il Canton Ticino ha lanciato un invito agli industriali italiani a trasferirsi dall'altra parte, hanno risposto in 600. Quasi tutti lombardi, quasi tutti con una speranza e con la stessa richiesta, trovare migliori condizioni di vita per la propria azienda e quindi per se stessi. Se devo pensare ad un mio futuro e quindi per almeno, se va bene, devo lavorare per altri 30 anni, io per altri 30 anni in questa situazione non ci voglio stare. Ha poco più di 30 anni Dario Romanò, ma per il futuro della sua ditta specializzata nella costruzione di macchinari per gelati ha le idee decisamente molto chiare. Se io trovo un paese dove mi offrono delle condizioni, come in questo caso la Svizzera, molto vantaggiose, dove svilupparmi, dove poter veramente sviluppare i miei progetti, la mia azienda, io per quale motivo adesso devo rimanere in Italia? A che punto è il suo percorso di addio all'Italia? Sinceramente, attendere che i dipendenti che devono andare in pensione vadano in pensione, di attendere di riuscire a vendere il mio immobile per andare, io sono pronto per andare. Io che ci penso alla Svizzera sono circa 4 anni, da quando mi sono successe delle vicissitudini, diciamo legali, dove non sono stato, mi sono sentito abbandonato letteralmente dalla giustizia italiana, dove mi sono trovato dei clienti che non mi hanno pagato e dove mi sono accertato, mi sono reso conto che quando una persona non paga, e per un'azienda piccola le garantisco che è un grosso problema quando un cliente o due clienti o tre clienti non pagano, non sono stato tutelato in nessuna maniera. Cioè vuol dire che il percorso giudiziario avviato non è riuscito a recuperare i suoi crediti, è quello che l'ha in qualche modo spinta a pensare seriamente di lasciare esatto. L'Italia. Questa è stata la ciliegina sulla torta, ora tassazioni esagerate, burocrazia esasperante, a livello legale non siamo tutelati minimamente, ripeto, per quale motivo non devo prendere in considerazione altre realtà come la Svizzera? Troppo stretti e troppo soffocanti sono diventati per questo giovane imprenditore i tempi e i passaggi di un paese dove la disoccupazione macina record su record e i giovani da tempo, insieme ai loro titoli di specializzazione, ritirano il biglietto per volare da qualche altra parte. La sua fretta di crescere è andata a sbattere contro la lentezza della giustizia civile, che non l'ha aiutato a recuperare crediti e che ha aumentato la sua percezione di uno Stato distante e poco sensibile, come è stato per Alberto Vanzini, che è sempre qui in provincia di Varese, ha un'impresa meccanica e che è stato tra i primi a dare voce alla loro sofferenza. Sicuramente è meglio la Svizzera, non tanto per una questione di tassazione più bassa, quanto per una questione di tutela dell'imprenditore, di rispetto nei confronti dell'imprenditore, di leggi certe. Qual è stato il momento in cui ha cominciato concretamente a pensare di lasciare l'Italia? Allora, io un periodo grosso di difficoltà, noi l'abbiamo avuto a fine 2008, da lì ad oggi non è successo assolutamente nulla. Sono nate nel corso di questi anni queste opportunità allettanti. Oggi in Italia. Cioè siete stati corteggiati dalla Svizzera? Siamo stati corteggiati dalla Svizzera, ma ha ragione, ci considerano. Noi produciamo comunque ricchezza, cosa che in Italia non riesco a capire per quale motivo non venga considerata questa cosa. Cioè, noi siamo gli evasori, cosa che non è assolutamente vera. Vi faccio un esempio concreto della differenza tra adesso, quando lei ha ancora la sua azienda qui in Italia, e che cosa invece significherebbe per lei andare in Svizzera. Dando per scontato che la tassazione è inferiore, in Italia se un mio cliente non mi paga, lo Stato in che modo mi tutela? Punto di domanda. Quando io recupererò i 5.000 euro o i 10.000 euro? Mai. Cosa che mi risulta che in Svizzera non avvenga. Fisco, credito, burocrazia, i problemi, si sa, avvicinano e rendono sempre più solidali le persone. Così a tarda sera, sotto le luci della fiera di Busto Arsizio, vedi i capannelli di imprenditori, anche concorrenti tra loro, darsi suggerimenti, condividere esperienze e problemi, ripetere che sì, è meglio la Svizzera. Quel punto interrogativo lo tolgono quasi tutti dal cartello col titolo di questa serata, voluta per far incontrare gli imprenditori col governo. A quella domanda loro rispondono con numeri precisi e storie che raccontano di una gara senza confronto, e sempre più spesso l'alternativa si pone proprio al momento di aprire una nuova azienda, come è stato per Davide Brusati, che per ora ha gli uffici a Malnate del Varesotto, ma che sta pensando di trasferire la sua Biomusic dall'altra parte delle montagne. Nel momento in cui ho aperto era già una delle variabili principali, se aprire in Italia o all'estero. Al di là della Svizzera, io poi mi ero informato anche per altri paesi europei, più che altro perché nel mio caso diventa abbastanza incidente il discorso della dogana. Lei produce tra l'altro anche i pezzi che vanno a comporre gli strumenti musicali. Per esempio corpo, manico per chitarra elettrica, basso elettrico. Alta qualità e alto artigianato, diciamo. Sì, esatto. Vengono tutti prodotti pezzi unici. Quello che un tempo è stato la grande caratteristica, la grande forza degli artigiani italiani. Esatto. Perché ha pensato e sta pensando di trasferirsi all'estero anche solo dopo un anno di attività? Principalmente per una questione di tassazione. Io nel momento in cui vedo miei competitor stranieri con prezzi che purtroppo per la mia situazione non sono assolutamente raggiungibili producendo in Italia, un pensiero lo faccio. Banalmente il mese scorso, quando ho dovuto rivedere tutti i listini per alzare di un punto percentuale l'IVA, è stato un problema. Messe una dietro l'altra, le storie dei singoli diventano un atto d'accusa collettivo che si gonfia di protesta e anche di rabbia davanti al tentativo del rappresentante dell'esecutivo di elencare quanto è stato fatto, di spiegare e promettere. Seduto sul palco davanti a 1200 imprenditori arrabbiati c'è Flavio Zanonato, uomo anche lui del nord, anche se di un altro nord, quel Veneto in lizza con questa zona della Lombardia, feudo del Senatur, pur per il futuro della Lega Nord. Fischi e voci grosse diventano così il segno di un dialogo interrotto. Ammette che poco è stato fatto, ma promette nuovi interventi per il prossimo anno. Il titolare dello sviluppo economico è arrivato a sentire con le proprie orecchie il malessere di questa terra. L'Italia ha grandi potenzialità, nonostante la crisi, che è descritta da un numero soltanto, 10% in meno di PIL dal 2009, l'anno prossimo avremo una crescita di un punto, nonostante le difficoltà abbiamo ancora le possibilità di una ripresa. Quindi... Ministro, gli imprenditori considerano troppo debole la legge di stabilità, sono possibili correttivi? Noi abbiamo distribuito 11 miliardi e 600 milioni, che sono quello che ci consente di fare il patto di stabilità. Questi 11 miliardi sono stati recuperati anche con un taglio alla spesa pubblica di 3 miliardi e mezzo. Penso che nel corso dell'anno del 2014 ci saranno ulteriori tagli e che le risorse che arriveranno le impiegheremo tutte per, appunto, ridurre il cuneo fiscale. Di tempi declinati al futuro, però, questa gente abituata a farsi da sé non ne vuole più sentire. Vuole vedere atti concreti come i loro capannoni, spesso messi su con le loro stesse mani e anche per questo ancora più amati. Lo si legge sul viso del signor Ciriacono, che da qui proprio non vorrebbe partire e per questo sta resistendo al contagio che sembra spingere tutti verso il valico diretto al nuovo mondo. Comunque è innegabile che ci siano dei motivi motivi, e direi anche dei seri motivi, che ci portano a fare questa riflessione, diciamo, di traslazione dal nostro territorio a quello elvetico. Io in modo particolare mi sento legato al mio territorio, alla mia terra, e vorrei mantenere l'attività qui. Se si fa bene o no, questo sarà il tempo a dirlo. E l'aria è pesante. Io penso che comunque questo non debba demotivare a una continuità dell'attività quando è già così radicata da decenni su questo territorio. La sensazione però, soprattutto in questa zona che è abbastanza vicina al confine, è questa. Sì, qualche azienda, diciamo, è andata, ma tanti sono rimasti qui, insomma. Cioè, c'è un po' in questo momento è la fase del panico e del rischio contagio. Sì, è un po' come quando c'è stato il discorso Cina, la Svizzera sotto il profilo, per esempio, della pressione fiscale è allettante rispetto al nostro paese. Questo contagio si fa sentire fra gli imprenditori. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.